prima di vederti ti conoscevo già in un altro mondo, un mondo senza età, lontano, lontano, e tanto tempo fa, chissà dove, chissà quando, hai vissuto con me prima di conoscerti. Io t'aspettavo già, la mia vecchia vita ora non ha più età, lontano, lontano, e tanto tempo fa, chissà dove, chissà quando, t'ho conosciuta già. Lontano, lontano, e tanto tempo fa, chissà dove, chissà quando, t'ho conosciuta già.